24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. So anch'io che c'è tanta gente che preferisce un passerotto in mano piuttosto che il tacchino sul tetto. Ho impiegato un mese per capire la storia del passero, del tacchino e dei bersani. Cioè, l'ha capita? Farò un master in bersanese. Buongiorno cari ascoltatori, sono le 6:34 minuti, ecco qua, riparte una settimana di 24 mattino. Quante cose che abbiamo da dirvi, da farvi ascoltare. Qui basta andar via due giorni e succede il finimondo, il finimondo! Come al solito, il consiglio anche per questa settimana del presidente del consiglio. But please relax. Qualcuno ieri si è rilassato anche un po' troppo, ieri mattina mi pare di aver capito che si è proprio rilassato sulla sedia. In ogni caso, apriamo il nostro bar condicio con la nostra solita Nicole Minetti a offrirci il caffè. E avete sempre finito di rompere le palle con la Minetti, per la Minetti, ho sempre capito, la Minetti, sempre non la Minetti. Parlare d'altro, non andate parliamo a lavorare, d'altro. Andremo a lavorare, va bene, intanto pelandroni, siete svegli in questo lunedì, 349-238-6666 per i vostri messaggi, se siete lì ditecelo, se siete svegli oppure no. Saluto Alberto Forchielli, buongiorno, presidente dell'Osservatorio Asia. Dove lo troviamo? Dove la troviamo? Sono a Imola. Ah, Imola, capi. Allora Imola, finalmente in questa nostra Italia è tornato. Stia attento. Felice. Felice, stia attento che tra un po' c'è anche la segreteria telefonica, c'è uno che se la prende con lei. Ve lo preannuncio già, così si prepara. Saluto anche Bimbo Alieno, il nostro blogger economico. Buongiorno Bimbo Alieno. Buongiorno a tutti. Settimana scorsa abbiamo scoperto che Bimbo Alieno lavora a portafogli, ma dove lavora? Dove? In una banca magari? Non diciamo più. In una banca. Naturalmente. Non diciamo quale, ma di che partito è? Non quella che è sulla bocca di tutti, No, ma infatti, ma non diciamola, ma almeno di che partito è questa banca, si può dire? No, per fortuna di nessun partito. Ah, strano, vabbè. Questo è di nessun partito. Va bene, ne avremo anche per le banche. Forchielli, ha sentito ieri Berlusconi? Ma non meritano commenti. Eccola lì, ma se tutti i giornali aprono su questo: Berlusconi, polemica sul fascismo, Berlusconi, Mussolini fece bene, Berlusconi, il Duce ha fatto cose buone. Vabbè, dai, facciamolo sentire. Ieri alla commemorazione della giornata della memoria, Berlusconi. È difficile adesso mettersi nei panni di chi decise allora. Certamente il governo di allora, per il timore che la potenza tedesca si concretizzasse in una vittoria generale, preferì essere alleato alla Germania di Hitler piuttosto che contrapporvisi. E dentro questa alleanza ci fu l'imposizione della lotta e dello sterminio contro gli ebrei. Quindi il fatto delle leggi razziali è la peggiore colpa di leader Mussolini, che per tanti altri versi invece aveva fatto bene. Io non lo so, possiamo commentarla come vogliamo. Adesso tutti i giornali scrivono, insomma, Berlusconi ha detto Mussolini ha fatto anche delle cose belle. In pratica, io quando ho sentito questa frase mi è subito venuto in mente, ve lo ricordate, Tutto Benigni del 96, era il 1996 e si contestava allora Berlusconi, andato da Clinton, di aver detto la stessa cosa. Allora dobbiamo tornare lì al 96, Benigni. E Berlusconi, quel piscolo, è andato da Clinton, che glielo chiese apposta che ne pensa di Mussolini, perché sapeva se era alleato con Fini. Berlusconi rispose: no, ha fatto delle cose buone, ma certamente. Ma dico, ma se neanche di Mussolini si può parlare male, ma che deve fare uno perché si possa parlarne male? Deve stuprare le capre in via Frattina? Che deve fare? Dice: ha fatto delle cose buone. Certamente anche Hitler o Stalin, un ponte e una strada l'avranno fatto, anche il mostro di Firenze l'avrà detto buongiorno a qualcuno qualche volta, a me dice ha fatto delle cose buone. Ma proprio noi, sarebbe come se io invitassi un elettricista a casa, no? Dico: scusi, mi rifà l'impianto, prego. quello mi rifà l'impianto, fatto bene. Nel frattempo mi tromba la moglie, mi sventra la figlia, mi violenta la cognata, mi stupra il nonno, dico, oh, ma questo è matto! No, però ha fatto delle cose buone, guarda che impianto, tata! Ma dico, ma siamo veramente rincoglioniti! Eccolo lì, allora, Alberto Forchielli, a me è venuto in mente Benigni, cioè era il 96 e siamo ancora lì a dire Hitler e Berlusconi su Mussolini. No, come al solito ha fatto delle cose buone. Berlusconi distorce il senso della storia, perché Mussolini volutamente fece l'alleanza con la Germania, sì, nonostante una forte opposizione interna al suo stesso partito, che era filo inglese. Dallo stesso Ciano a Dino Grandi, ambasciatore a Londra e compagnia. E quando entrò in guerra, pur sapendo di non essere preparato, sì, tutto dichiarò: mi basta qualche migliaio di morti per sedermi al tavolo della pace. Ho capito, ma Forchielli, sì, cioè, capito, abbiamo già perso tutti, se siamo qui alle 6:40 a rifare la storia, a riscrivere la storia, perché, no, ma voglio perché dire, ieri voglio... Berlusconi ha detto Mussolini ha fatto delle cose buone. Sì, no, ma no, ha detto di peggio, ha detto siamo stati trascinati in questa guerra. Sì. No, ma lasci perdere, capito? Cioè, distorce... Questo è un caso incontrovertibile, capito? Perché ci sono libri, c'è il diario di Ciano, ci sono documenti storici inattaccabili, capito? Sì, ma noi siamo qui, bimbo alieno, siamo qui con tutti i problemi che abbiamo a discutere se Mussolini ha fatto delle cose buone, perché ha costruito la stazione centrale di Milano, perché, come dice Benigni, un ponte, una strada, delle bonifiche le avrà fatte pure lui, no? E quindi è così. E adesso in campagna elettorale l'agenda dettata per il lunedì è: Mussolini ha fatto delle cose buone oppure no? Bimbo alieno, il verdetto di Bimbo alieno su questo. Beh, no, direi che anch'io in effetti confesso che ricordo andato immediatamente a quello spettacolo di Benigni e a quelle che erano le battute che hai riportato questa mattina. Cosa, io non credo che ci sia davvero molto da aggiungere, da discutere sull'operato. Abbiamo da discutere così tanto sull'operato dei governi recenti, dobbiamo andare a rivedere l'operato dei governi di 70 anni fa. Che ne so, evidentemente è così. Tra l'altro, ieri Berlusconi non era invitato a questa commemorazione, cioè non era invitato e si è presentato, e tra l'altro si è presentato come peraltro Maroni, credo non fosse invitato, come Albertini, vabbè, ma legittimo, si è presentato, quindi insomma quando uno un po' se ne va anche a cercare, si è presentato e si è seduto. Forchielli, a un certo punto, racconta il Corriere della Sera, non sapeva, visto che non c'era la sedia col suo nome, Berlusconi è andato in prima fila e si è seduto al posto di Mario Monti. Se immagina Forchielli la scena, quello che è arrivato fa: ehi amico, è quella sedia, sei seduto sulla sedia del presidente del consiglio, Forchielli, e invece insomma no, non è più sua. È imbazzurlito. Mamma mia, è imbazzurlito. Allora parliamo di cose un po' più serie, anche se oggi i giornali, guardate, li prenderete, sono tutti dedicati a questo, almeno le aperture. La banca, le banche, Bersani è arrabbiato, è diventato anche un mantra su Twitter, un hashtag, questo suo "li sbraniamo", Bersani. E lasciano quasi intendere che attorno a sta roba ci sarebbe qualcosa di men che corretto da parte nostra. Lo affermassero che li sbraniamo. Li sbraniamo. Li sbraniamo. Ecco, ovviamente si riferisce al Monte Paschi Siena, l'accusa è la banca del Partito Democratico. Bimbo alieno che di banca se ne intende. Ecco, quando si dice, e qualcuno dice in maniera strumentale, utilizzando "è la banca del PD, è la banca", cosa vuol dire? Una frase che ha un certo senso, è una frase che si può portare avanti con una certa convinzione, oppure sono quelle cose che si dicono così? Guarda, allora le cose stanno, credo, più o meno così. Il problema non è un'ingerenza diretta del PD, ma la presenza indiretta, cioè l'influenza del PD sul consiglio di amministrazione di Montepaschi è oggettivo, nel senso che il numero di consiglieri di emanazione, di indicazione PD è notevole. Come spesso succede, quando la politica interviene in modo diretto nella scelta di un management di un'azienda, capita che il livello di competenza sia più basso della media. Questo crea le condizioni crea qualche problema per eventuali malversazioni di persone in cattiva fede, che magari non sono le persone indicate, ma che vivono, proliferano in questo humus. Sì, ma al di là del livello, che già è una questione importante, perché se uno mette un management che non è di livello, poi si possono creare dei problemi. Il problema è che quando poi si creano questi problemi, è chiaro che uno può dire, ma quello lì è stato messo dalla politica. Forchielli, una cosa del genere, come funziona in Cina? Ci sono le banche controllate dal potere politico? Sì, no, le banche sono strettamente controllate dal governo, il sistema finanziario è controllato dal governo. Difatti il sistema bancario fa carne di porco, è un disastro. Quindi una cosa del genere succede in Cina, però non fanno la prima pagina dei giornali, perché la mettono a posto. Vabbè, ho capito, perché lì censurano le cose, le notizie, o no? Sì, un fallimento bancario lo evitano, se non se ne parla, se mettono i soldi, chiuse, basta, capito? Ho capito, però, ma anche qua abbiamo messo i soldi per ora, 4 miliardi di euro, almeno viene garantito che sarà un prestito. No, diciamo questo, ossia che in Cina stanno partendo dal nulla, capito? Mentre qui c'erano 540 anni di storia, di frugalità, di esperienza, dissipati da quattro cretini in 5 anni, capito? Questa è la cosa che ci differenzia dalla Cina. Mentre in Cina stanno imparando a fare banca e un po' alla volta, tentoni, ci arrivano. Qui, ragazzi, capito? Neanche lì sono capace. È l'ulteriore segno di un popolo che rincretinisce. Forchielli ce l'ha sempre con il nostro popolo. Tra poco, Forchielli, dopo le informazioni sul traffico, c'è la segreteria telefonica. L'ascolti bene. 24 mattino. Sono veramente schifata, veramente schifata. Il forcone non basta, bisogna tagliargli la testa a questa gente. Ecco, la ghigliottina andrebbe ora. Forchielli potrebbe pure avere ragione, ma il fecciarolo d'eccellenza è proprio lui che si permette di non votare. Lascialo in Cina. Dai Alessandro, dai che ce la puoi fare. Alessandro, noi che stimiamo il buon Oscar Giannino, è un anno che diciamo come minimo che Monte Paschi Siena deve essere lasciata libera dalle mani dei vari partiti che pascolano. E voi giornalisti, è su queste cose che dovreste puntare il vostro occhio. Fabrizio Corona, hai finito di fare lo spavaldo, tutti gli atteggiamenti da mamma santissima. Poi devi andare in carcere, devi vedere com'è bello il carcere, stai attento quando dormi. Elezioni 2013, io so chi non votare e non so chi votare. Politici moralmente vergognosi, e questo per essere solo educata, devo dire. I sindacati sanno leggere e scrivere, ma sapranno far di conto. Come siamo conciati, ragazzi, sei incuscia, Benchi, oh signor, ma sei incuscia, ormai siamo al grappino, ma la frutta al grappino, ma sei incuscia, chiediamo aiuto ai santi. Basta, tutti a casa! Allora, siamo con Bimbo Alieno. Bimbo Alieno lo trovate anche così come blog, come Twitter. E siamo col fecciarolo d'eccellenza. Alberto Forchielli, il fecciarolo primo, colui che si permette di non votare. Ha sentito la nostra segreteria, Forchielli? No, io sono fecciarolo. Residente all'estero, quindi Ho capito. Io sono residente all'estero, ma può votare. Ma può votare a Hong Kong, però ha detto che non vota. Infatti è difficile che sia, adesso non so se riesco a far colimare le date, farò il possibile, capisco questa critica, l'accetto e quindi farò il possibile per votare. Ah, attenzione, si redime Forchielli. Ma sì, voglio dire, se questa questa mia sincerità getta un velo sulla mia integrità. Ma ho capito, ma critica e quindi. Ma Forcalli, ma è un ascoltatore, a chi se ne frega, è un ascoltatore che la pensa così, non è che si deve. Magari, ma però non ha detto una cosa stupida, se voglio dire. Io dico feccia, poi non voto. Io credo che debba prendere atto di questa cosa e farci una seria riflessione. Ah, vabbè. Ovviamente per aver diritto di ridire quello che penso, sia feccia, popolo rincretinito, popolo che non lavora, io devo guadagnarmi questo diritto andando a votare. Ma la migliore non è rincretinito, è imbazzurlito. Il migliore è imbazzurlito è Berlusconi, rincretinito il popolo italiano, è diverso. Vabbè. Bimbo alieno com'è? Bimbo alieno, tu hai dei giudizi da dare anche tu, così editoriali secchi? Parafrasando la prima registrazione della segreteria, direi che non ci vogliono i forconi ma i forchielli. Non ci vuole meno forconi e più forchielli, potrebbe essere uno slogan per scendere in politica. Intanto avete visto, siccome Forchielli ha detto che nel caso in passato è Monti la persona che più lo ispira, diciamo, come persona che potrebbe portare avanti l'Italia, allora Monti ieri, che è stato fischiato, si è presentato dai terremotati, possiamo sentire qualcuno, no? Ha protestato, insomma, come si sa, poi fa notizia tanti pochi, chissà, che protestano. Fai a modo, Mario, fai a modo. Li fai a tuo modo, mica fai a modo. Insomma, qualcuno qua ha deciso di accoglierlo così. Sono volati, è volato anche un uovo che ha colpito, non ha colpito Monte, ha colpito un sindaco, il sindaco di un paese di Monte Paschi Siena, vabbè, tira di ballo queste cose. Vabbè, insomma, Monte è stato contestato. Ma la cosa più interessante l'ha detta Crozza venerdì su Monti, Montiani candidati. Sentite cosa ha detto Crozza. C'è una società civile che scende in politica e viene dal basso, poi c'è un'alta società civile che sale in politica e viene dall'alto. È tutto un salire e scendere praticamente, no? Al piano merda ci stiamo noi, cioè nella lista Monti ci sono loro, no? Marcegaglia, Fornero, Dellai, Rita, come si chiama questa qua? Rita Lidia Rota Vender. Montezemolo, Tronchetti Provera. No, lei Ilaria Borletti Buitoni, che insieme a Lidia Rota Vender vanno storte così. E poi c'è Paolo Vitelli, che è il re degli yacht. Questa gente qua, io credo in loro. E aderiscono tutti alla lista Monti. Cosa hanno in comune queste persone? Beh, che loro davvero potrebbero risolvere i problemi di questo paese. Io credo in loro. I believe in them. Basterebbe mettergli una patrimoniale a loro, dico solo a loro. Basterebbe metterla a loro. Il più povero di questi qui ha la canciacca. Questo Crozza, quella del risico, quella vera, in Asia. Forchielli, basterebbe mettergli, insomma, l'accusa, dice, candida, come dire, un certo tipo di società, di alta società, quella benestante, no? Basterebbe, il più povero di questi è la Kamchatka. Monti si è arrabbiato tantissimo, tra l'altro, ha detto, è pateticamente disinformato, Crozza. Forchielli è un po' l'espressione di un'alta società, Monti? Ma no, cioè, è l'espressione di quella borghesia, di quel poco che è rimasto in Italia di una borghesia illuminata. Perché il problema del nostro paese è che non esiste una borghesia illuminata. Monti ne è un po' l'espressione. Sì. E quindi lui cerca di prendere quelle persone che appartengono, che hanno una minima visione. Io in questo sono abbastanza solidale con Monti, sì. Anche perché tenete presente che la gente non vuole sapere andare in politica, capite? Convincere uno ad andare in quell'arena lì. Beh, oggi il sole scrive in prima pagina che metà dei parlamentari si ricandida. Non so, Bimbo alieno, Monti dà l'idea un po' di essere l'espressione di quella società, un po' alta società, oppure la borghesia illuminata a cui fa riferimento Forchielli? Ma no, sì, senz'altro un po' fa riferimento o comunque all'immagine di questa

seguendo le linee guida internazionali e nazionali. Quindi sul tema dell'ambiente, immagino. So che, ecco, questo l'ho letto da qualche parte, è definita una passionaria dell'ambiente. Questo sì. È vero. Condivide questo. Perché condivido, perché in effetti occuparsi di tematiche ambientali poi in realtà significa occuparsi anche di tematiche sociali, perché faccio considerare che quando si toccano delle gravi disuguaglianze in tema ambientale si ricade anche nel sociale. Basta pensare a quando si gestiscono male i rifiuti, come è successo in provincia di Napoli, a quelli che sono i gravi danni anche sociali. Ecco, per esempio, basta il pensare tema quando non si fa un sano assetto idrogeologico del territorio, pensate ai danni sociali che poi ne conseguono. Ecco, per esempio, i rifiuti, visto che lei li ha citati, immagino che l'inceneritore, come dice Beppe Grillo, non sia la strada, secondo lei. Non è la strada giusta quella dell'inceneritore? Fosse governatrice della Lombardia? Certo, non è assolutamente la strada giusta, ma per un motivo ben preciso, non per dire no agli inceneritori per prese posizione, ma perché esistono le tecnologie per fare un recupero della materia, perché innanzitutto il rifiuto è un termine che non deve nemmeno essere utilizzato, ma bisognerebbe parlare di materia, e bisogna recuperare tutta la materia che produciamo, e quindi con una raccolta spinta, porta a porta e puntuale, e cioè pagare per il generico che io produco. Questo generico ulteriore poi può essere recuperato con trattamenti meccanici biologici, e non solo, ma anche altre tipologie di recupero, come fanno ad esempio a Capannori, recuperano la materia anche direttamente prima delle isole ecologiche, smontando tutto ciò che può essere smontato in diverse parti prima di buttarle in discarica. Diciamo, comunque questo non è l'inceneritore, per le tecniche che ci ha spiegato, la via che lei proporrebbe. Anche so che punta molto sulla questione dell'inquinamento, ma per esempio sarebbe disponibile, che ne so, a blocco del traffico. Le piacciono queste iniziative sul blocco del traffico? Ma sì, allora, siamo in realtà, quello del blocco del traffico è semplicemente una farsa, perché non è facendo questo blocco a fasi alterne che si risolve la questione. La questione va risolta a monte, ad esempio affrontando un piano di gestione del trasporto su strada e in un certo modo, quindi non certamente costruendo 800 km di autostrade come vogliono fare in Lombardia, ma lavorando su quello che è il trasporto pubblico integrato con tutti i mezzi di trasporti pubblici, integrato anche nelle modalità di pagamento del trasporto pubblico, integrato anche nel modo in cui si arriva verso una città come Milano, ad esempio, che fa da fulcro per i lavoratori. Sì. E quindi cercando di organizzare, distanti da Milano, dei punti di raccordo che poi diventano punti intermodali di scambio per i pendolari. Quindi certamente non è sviluppando l'autostrada. Qual è la prima emergenza per la Lombardia, secondo lei, da possibile presidente della Lombardia? Purtroppo c'è un frio rouge che tocca tutte le tematiche dei settori lombardi, quello sanitario, quello scolastico, quello del trasporto, quello dei rifiuti, che è la lotta alla criminalità organizzata. Questo non c'è dubbio, bisogna iniziare a lavorare su quel fronte. Che però non è che lo deve fare il capo politico di una regione, cioè questo o anche il capo politico, però aspetta. Anche. Certo, deve farlo anche, e comunque ci sono anche degli strumenti da portare avanti, come una stazione unica appaltante regionale, a titolo di esempio, e comunque tutti degli interventi in tema di legalità certi che devono iniziare a mettere, come dire, dei freni alla criminalità organizzata, che oggi ha le mani dentro in pasto in tante istituzioni, in tanti settori dell'economia. In questo senso va contrastata. Con la lotta alla criminalità organizzata. Senta, lei è stata scelta, credo, con 658 voti con lo studio. Come è stata scelta? Online? Si è votato tra i rappresentanti del Movimento 5 Stelle? Sì, le votazioni sono online. Io ero una candidata, ma tutti quei 658 che mi hanno votato erano anche loro potenziali candidati, quindi in questo c'è la rivoluzione. Non hanno votato solo me, ma hanno votato tutti i candidati alla regione, chiunque poteva candidarsi a parte di rispettare quelle pochissime regole che abbiamo all'interno del movimento. Ma poi c'è, cioè, stata davvero la prima volta in Italia. Lei poi, perché sa, si accusa anche in realtà al movimento di essere poco democratico, per esempio. Lei come la vede questa questione della mancanza di democrazia all'interno del Movimento 5 Stelle? È vero che sotto campagna elettorale ognuno può dire quello che vuole, quindi forse siamo meno credibili in campagna elettorale, ma davvero da noi non esiste gerarchia, non esiste una verticalizzazione nelle decisioni, non esiste qualcuno che decide per altri. Ogni singolo processo, ogni singolo voce di programma, ogni singolo candidato viene scelto in maniera democratica, col dibattito, con la discussione, a volte anche molto accesi tra l'altro, però come dire, cosa è democrazia? Quindi non esiste un Beppe Grillo o una Casaleggio che ne dicano in giro i giornali che decidono per noi. Dall'altro, nella maniera più assoluta. Ma lei Casaleggio l'ha mai incontrato? L'ho visto sì, ultimamente, perché abbiamo firmato un impegno candidati, e quindi ci siamo appoggiati a lui come fisicamente, come studio, per ridurre i nostri 5.000 euro lordi mensili come guadagno massimo del consigliere regionale. 5.000 euro, ecco, questo è quello che lordi, quindi sui 2.700, diciamo 2.700 potrebbe essere. Questo è quello che dovrebbe guadagnare il consigliere regionale, secondo lei? Sì, oltretutto non accetteremo rimborsi pubblici, e quindi anche questo è un grande risparmio per i lombardi, perché sono soldi che dovrebbero rimanere nelle tasche degli italiani. Oltretutto saremo solo due mandati e poi non potremo riproporci per nessuna carica istituzionale, così da garantire un riciclo e anche per evitare che si formino quei centri di potere che, le dicevo prima, sono proprio il punto di partenza per la criminalità organizzata. Quindi lei è d'accordo con le persone che sono state anche col fatto di avere anche estromesso alcune persone che poi ho visto si sono candidate altrove, penso per esempio a Giovanni Favia in Regione Emilia-Romagna? Sì, non è questione di essere contenti di queste estromissioni, è questione che esistono pochissime regole nel movimento, queste sono ben accettate all'inizio della propria carriera politica, diciamo così, e quindi sfugge il motivo per cui poi dopo due mandati non vengano più accettate, o perlomeno a me non sfugge. Quanto pensa di arrivare come percentuale? Cioè il Movimento 5 Stelle ai sondaggi quanto è dato in questo momento in Lombardia? Credo, perché Maroni e Ambrosoli sono testa a testa, diciamo, dai sondaggi, e poi Albertini sembra molto distanziato, e voi? Allora, i sondaggi ce n'è di ogni genere, che vanno dall'8% al 20%, quindi la dicono lunga sull'affidabilità anche dei sondaggi. Noi vediamo che quando facciamo qualsiasi cosa nelle piazze non abbiamo problemi a riempire le piazze, abbiamo raccolto le firme in un weekend e abbiamo ben superato le firme che avevamo bisogno di raccogliere. Abbiamo un riscontro con i cittadini che è davvero fortissimo, per cui secondo il nostro punto di vista faremo veramente un boom. Un boom. Faccio una previsione, un Silvana Carcano, visto che lei è la rappresentante, comunque la candidata del Movimento 5 Stelle alla Regione Lombardia, secondo lei si avvicinerà più al 20% che all'8%? Non lo so, non voglio fare previsioni, perché comunque non ci interessano sotto questi aspetti i voti, ci interessa di più avere una partecipazione attiva del cittadino, cioè quello che ci voterà non deve essere un voto e solo con una X in un giorno all'anno, ma deve essere una persona che vuole anche controllarci quando entreremo in regione. Considera ad esempio una cosa, la Lega e il PDL hanno presentato la lista dei candidati, li stiamo, come dire, controllando, e abbiamo già visto che sono presenti 5 consiglieri che nello scorso consiglio regionale erano indagati per furti al come rimborso elettorale. E secondo lei il cittadino deve tornare a essere parte attiva del controllo delle proprie istituzioni. E quindi non mi interessa il sondaggio, come sarà, come finirà, mi interessa che chi ci vota sarà davvero un controllore anche nei confronti del Movimento 5 Stelle. Cioè vuole che i cittadini controllino anche. Senta, l'ultima domanda invece: Beppe Grillo non l'ha mai sentito, non l'ha mai conosciuto, non l'ha mai visto? Sì, no, io l'ho conosciuto, perché comunque sono appunto... No, perché l'accusa è quella di essere, lei dice non c'è massima democrazia, eccetera, però di essere un po' diretti dall'alto, nel senso senza Beppe Grillo, senza la visibilità di Beppe Grillo, voi candidati cosa sareste, come dal punto di vista della spendibilità anche tra la gente. Allora, c'è un equilibrio tra noi e Beppe Grillo. Vale a dire, Beppe Grillo va dato atto che ha avuto questa visione, a mio avviso, geniale su un nuovo modo di fare politica. Senza Beppe Grillo, in effetti, non ci sarebbe stato questo movimento e nemmeno noi singoli candidati avremmo potuto essere così visibili e avere questi numeri dentro le istituzioni. Certo. E questo è sicuro. Ma adesso anche una cosa, ciò che dice Beppe Grillo ormai da anni, tramite il blog o comunque nelle piazze, è frutto di un'elaborazione davvero di chi è attivista nel Movimento 5 Stelle da anni. Vale a dire, non decide Beppe Grillo qualcosa che poi viene calato e portato avanti da noi, ma esiste un movimento ormai consolidato, ormai formato, ormai pieno di gente che ha capito quali sono i nuovi modi di fare politica, che porta avanti delle istanze, che porta avanti un programma, quindi non, che quindi porta avanti delle scelte, che Beppe Grillo... Non la vede invece come uno che decide dall'alto, che comanda un po' per tutti? Ma io lo ripeto, io sono dentro il movimento dall'origine. Io prima del movimento ero una delle classiche meetupare che portavano avanti i meetup che venivano chiamati come gli amici di Beppe Grillo. Sì. Quindi sono una un po' delle storiche come tanti altri. Non ho mai avuto Beppe Grillo che mi avesse fatto una telefonata per dire fate così e fate cosa, mai. Beppe Grillo lo usiamo, poverino, in modo anche da sfruttamento, per fare da megafono per tutte le nostre campagne elettorali, ed è un compagno di viaggio, davvero come altri. Un lui ha dalla sua una potenzialità teatrale. Va bene. Perché è il suo mestiere. Allora, io... No, è chiaro, è stata chiarissima sulla sua posizione. Io qui mi devo fermare per la pubblicità e la ringrazio. Ovviamente in bocca al lupo per la campagna elettorale. Silvana Carcano, che è rappresentante del Movimento 5 Stelle per la Regione Lombardia, è stata con noi. Noi tra un attimo, tra 5 minuti dopo la pubblicità e il meteo, se volete anche con il vostro contributo 800240024, parliamo di Monte Paschi Siena, insomma, questa vicenda Monte Paschi Siena, le banche, gli intrecci con la politica. 24 mattino. E allora eccoci qua, sono le 8:35 minuti. Vogliamo parlare della vicenda Monte Paschi Siena, del rapporto con la politica. Lo facciamo con due ospiti, il vice direttore di Repubblica Massimo Giannini, che saluto. Buongiorno e benvenuto Giannini. Buongiorno, grazie. Buongiorno. Saluto anche Claudio Borghi, che insegna, è docente in Cattolica, ma è anche un editorialista del Giornale. Buongiorno Borghi, anche a lei. Allora, intanto Giannini, vogliamo risentire la frase di Bersani, che è diventata anche un hashtag per chi segue Twitter, cioè un qualcosa di molto, che ha avuto molto, molto seguito, il famoso li sbraniamo, l'accusa del candidato del centro-sinistra è a chiunque, e tra l'altro in particolare anche ai giornali che ipotizzano che ci possa essere questo legame, una responsabilità del Partito Democratico. Bersani ha risposto così. E lasciano quasi intendere che attorno a sta roba ci sarebbe qualcosa di men che corretto da parte nostra. Lo affermassero che li sbraniamo. Li sbraniamo. Ecco, Massimo Giannini, ha ragione secondo lei Bersani a distinguere il PD fa il PD, la banca fa la banca, oppure c'è una qualche responsabilità anche del partito sulle vicende di Monte Paschi Siena? Ma adesso si tratterà di capire, attraverso l'inchiesta della magistratura, quali sono le vere responsabilità dirette di questo dissesto di una banca che è stato motivo anche di orgoglio di questo paese, visto che parliamo dell'istituto più vecchio del mondo, più antico del mondo. Però al di là di questo è evidente che ancora una volta si conferma in Italia una connessione impropria tra economia e politica, tra finanza e politica. Capisco che Bersani si sia trovato esposto in una fase di campagna elettorale così calda e così rovente ad attacchi molte volte strumentali che arrivano dal fronte della destra, però nel caso specifico del Monte Paschi è difficile non individuare nel legame così solido e per alcuni versi inestricabile che è esistito da sempre tra quell'istituto e le autorità politiche locali comune e provincia da sempre in mano al Partito Democratico, un elemento di forte criticità sul quale effettivamente il PD deve interrogarsi anche a livello di amministratori nazionali, perché in più di una circostanza nel corso di questi anni anche dirigenti del partito a livello nazionale hanno finito per interessarsi di ciò che accadeva nel Monte dei Paschi, a prescindere diciamo dalle ultime vicende di questo scandalo, perché non è certo detto che anche in queste ultime ci sia lo zampino del PD nazionale, sì. Questo è evidente, però quel legame per alcuni versi incestuoso che da sempre caratterizza quella banca con le autorità locali è un elemento sul quale bisogna riflettere, che a mio parere andrebbe reciso. Dopodiché è anche giusto dire, e in questo momento capisco che sia corretto da parte di Bersani replicare, che questo tipo di legami tra finanza e politica attraversa in modo trasversale, c'è un po' dappertutto, ma infatti basti pensare alla vicenda di Denis Verdini con il credito cooperativo fiorentino, oppure la Credi Euro Nord ai tempi, ma infatti che sono i casi che Bersani ha citato, era diciamo l'inizio, l'incipit di questa sua dichiarazione che l'ha portato poi a dire li sbraniamo, cioè come dire parlano loro, ecco, questa tradotta così da parte di Bersani. Non so, vorrei chiedere a Claudio Borghi, oggi il giornale è da vari giorni per la verità, e vorrei chiedere se anche strumentalmente, perché siamo in campagna elettorale, cavalca molto questa vicenda dicendo proprio è la banca del Partito Democratico, anche oggi fuori soldi, caro Partito Democratico, da questa banca. È davvero così o è un problema trasversalmente che riguarda un po' tutti i partiti, Borghi? Ma allora, che Montepaschi sia la banca del Partito Democratico è nei fatti. Quando all'epoca l'operazione Anton Veneta venne realizzata, ci fu un commento su Repubblica a firma di Massimo Giannini diceva: e a questo punto, cito, e a questo punto il centrosinistra ha solo l'imbarazzo della scelta, non abbiamo una banca, come disse Fassino ai tempi dell'affare Unipol BNL, ma addirittura tre. Quindi mi sembra che non è inutile neanche parlare del fatto che il Monte dei Paschi di Siena sia una banca direttamente riferibile al PD. Poi dopo vedo, leggo dei tentativi di dire che c'erano dentro interessi di altre parti, però non importa, cioè a un certo punto ci deve essere un sistema di accountability, vale a dire nel momento stesso in cui uno ha la responsabilità e il potere di nominare management in proporzioni uniche rispetto a altre fondazioni e altre banche, poi chi ci mette sono responsabilità sue. Quindi, e poi dopo un'altra cosa che io invece vorrei vedere rispetto a tentativi peraltro acrobatici di far sembrare che le cose sono tutte uguali, vorrei che si parlasse di proporzioni. Qui ci sono 4 miliardi che mancano. Sì. 4 miliardi sono tanti soldi. Cioè sono 4 miliardi i Monti bond. Giusto per essere chiaro, perché poi dopo anche Monti lui dice che non è vero, è un prestito e così questo tipo. Sì. Allora, se deve intervenire il pubblico per metterceli quei soldi lì, significa che quei soldi non ci sono. Poi dopo è un'ottima speranza che questi soldi verranno restituiti, però intanto le caratteristiche del prestito sono a babbo morto. Qual è però l'alternativa che ci si pone di fronte sempre a questo? Far fallire una banca o rischiare di far fallire una banca con tutto quello che comporta anche per i correntisti? Assolutamente, non scherziamo, cioè ovviamente le forme di salvataggio della banca le abbiamo viste in Europa, sono assolutamente da sistemare e vanno guardate, però fermiamoci sulle proporzioni. 4 miliardi sono 4 mila milioni, significa che 4 mila ville da 1 milione di euro fatte saltare per aria con la dinamite, cioè sono i danni della prima ricognizione del terremoto dell'Emilia. Io quando leggo sempre Massimo Giannini, che approfitto di avere lì, sì, no, che scrive invece recentemente ma chi ci restituirà i miliardi che spese nel 2005 per salvare Credi Euro Nord, mi verrebbe da dire: ma di che cosa stiamo dicendo? Quali miliardi? Miliardi? Credi Euro Nord era una banchettina con due sportelli fatta goffamente in casa da quelli della Lega, che chiuse e poi dopo viene assorbita dentro la BPL e poi dopo la domanda è invece chi restituirà questi miliardi. Giannini risponde a questo: chi restituirà questi miliardi? È anche all'articolo insomma che ha tirato fuori Borghi, io non ricordavo se lei l'ha scritto. Abbiamo tre banche all'epoca di Anton Veneta. Ma intanto per quanto riguarda la vicenda Montepaschi, come è evidente, anche recuperando quell'editoriale che io scrissi a suo tempo, questa è solo la conferma dell'assoluta oggettività con la quale almeno io e il mio giornale guardiamo a certi fatti. Non abbiamo mai fatto sconti neanche al Partito Democratico quando si trattò della famosa vicenda BNL Unipol e fu chiaro anche attraverso la famigerata intercettazione telefonica di Fassino sul tema abbiamo una banca, che certe commistioni anche a sinistra c'erano e purtroppo hanno continuato ad esserci. Quindi questa citazione la rivendico come elemento appunto di analisi oggettiva dei fatti e non mi fa velo certo una qualche appartenenza politica nei confronti del giornale per il quale scrivo. E, per quanto riguarda Credit Euro Nord, chi restituirà i miliardi non lo so, perché quello è un altro ma scandalo. Ma non ci quale... sono i miliardi nell'Euro Nord, nel Credit ma Euro guardi, Nord. È sempre stato molto, purtroppo, al contrario di quello che succede in questa vicenda di Montepaschi, nel caso Credit Euro Nord di cifre non se ne sono neanche riusciti a fare, perché in ogni caso ci si può rifare, se vogliamo, alla vicenda delle quote latte, dove... perché era quella la banca che gestiva le truffe delle quote latte. Ah, quindi sono quelle le cifre a cui fa riferimento per la questione Credit Euro Nord? Assolutamente sì, è abbastanza acclarato che attraverso quell'istituto si facevano quel tipo di operazioni. Ma in ogni caso adesso il tema non è stabilire quale sia la quota dell'uno e quale sia la quota dell'altro, anche perché, fermo restando, come dicevo prima, che sulla vicenda Montepaschi il Partito Democratico è il primo delle forze politiche che deve interrogarsi, bisogna anche tener conto, e noi ne diamo conto oggi sul giornale con un articolo per esempio di Alberto Statera, che anche all'interno di una banca fortemente radicata all'interno della sinistra italiana, come appunto il Montepaschi, poi, come si suol dire, ce n'era per tutti, compreso Denis Verdini, tanto per dire, perché quello era un istituto che era diventato una sorta di bancomat per di fatto tutte le forze politiche, non certo soltanto il Partito Democratico, perché sappiamo bene come funziona in questi casi. Quando c'è una gestione politicamente ispirata, tutti ci si buttano. E più o meno alla fine diventa uno strumento di compensazione dove trovano soddisfazione un po' tutti. Si fermi un attimo qui, diamo le informazioni sul traffico. È per quello, e qualcuno ha adombrato anche questo sospetto, che subito Silvio Berlusconi non ha attaccato su questa vicenda. Lui di solito pronto a sfruttare anche in campagna elettorale ogni elemento. Il primo giorno ha detto no, ma è una banca a Montepaschi-Siena al quale sono affezionato, anche perché mi ha permesso di costruire Milano 2. Allora, siamo con Massimo Giannini e Claudio Borghi. Borghi, le chiedo questo, Borghi. Il mio timore è che c'è un aspetto di Montepaschi finanziario. Per esempio, oggi il Corriere della Sera racconta con Fiorenza Sarzanini a pagina 3 che probabilmente la procura sta indagando sul fatto che ci potrebbe essere stato un accordo tra il venditore sulla vicenda Antoveneta, venditore cioè Santander, e l'acquirente, vale a dire Montepaschi, per gonfiare la vendita fino a 10 miliardi e poi spartirsi i 2 miliardi di plusvalenza, perché la banca fu quotata troppo. C'è un aspetto finanziario, ci sono i correntisti, che fine fanno, qual è il reale buco all'interno del Montepaschi, e c'è l'aspetto politico. Non è che prevale questo secondo aspetto, quello politico, cioè di utilizzare questa vicenda in un momento sensibile di campagna politica e poi trascurare quelli che sono gli effetti che poi ci ritroveremo tra 6 mesi dopo le elezioni? Ma allora, partiamo dai fatti. Noi abbiamo una banca che era stata venduta poco prima a 5 e viene comprata pochi giorni dopo a 9 miliardi. Sì. Allora, quando questa cosa succede, le possibilità sono due. O c'è una cresta, che è quello che viene ipotizzato, ma la madre di tutte le creste stiamo parlando, perché quando uno con soldi non suoi strapaga qualcosa, la prima cosa che normalmente uno sospetta è questa. E allora abbiamo o la madre di tutte le creste, oppure abbiamo clamorosa e crassa insipienza. In tutti e due i casi, da una parte c'è il dolo, dall'altra parte c'è la colpa. Mi sembra impossibile che non vengano considerate responsabilità. Quindi quando Bersani dice se qualcuno osa dire che c'è qualcosa men che regolare, ecco, io oso dire che c'è qualcosa di men che regolare, perché se va male c'è dolo, se va bene c'è colpa. No, ma lui diceva men che regolare nei rapporti tra il partito e la banca, cioè non men che regolare. Sembra che abbiamo appurato che il partito è diretto responsabile delle nomine della banca, e quelle persone non sono arrivate lì a caso, e il fatto che ci fossero dentro, come sembra adombrato, anche persone del PDL non importa, perché la responsabilità è di chi ha il potere di metterle, certe persone. Se anche dentro nella banca avessero messo Cosentino, Dell'Utri o cose di questo tipo, ma se le responsabilità di mettere le persone dentro nel management della banca fanno capo a personalità politiche del PD, la responsabilità è loro, quindi trovo curioso che uno se ne venga fuori. E se devo aggiungere, questo schema, vale a dire dello strapagare, mi sembra una certa impronta che abbiamo già visto in altri casi, sempre con la sinistra al governo, e mi sto riferendo al caso Serravalle Penati, perché anche in quel caso avevamo delle azioni della Serravalle che erano state pagate da chi le poi dopo finì a venderle molto poco, e vennero strapagate con i soldi pubblici, e poi dopo non si sa più che cosa successe, sì. Perché guarda caso la legge è uguale per tutti, ma quei fatti molto palesi del 2005 non hanno ancora avuto la grazia di vedere un processo iniziato, mentre invece per esempio per rubi, gli oggettini e altre cose assolutamente però vede che anche lei, lei pone, lei Borghi pone molto l'accento sull'aspetto politico della vicenda, cioè non c'è il rischio che poi finite le elezioni tra 4 mesi rimarrà il problema principale, cioè che il legame tra la politica e le banche è assurda in questo paese, e allora adesso ovviamente si utilizza, ma giustamente dal punto di vista del centrodestra, questa cosa in maniera da poter togliere dei voti al Partito Democratico, ma poi si rimane il problema di fondo, tra un mese nessuno se ne occuperà, o no Borghi, di questa cosa? Beh, ma anche in questo caso, cioè, il fatto di poter proporre un problema della governance è un problema eminentemente politico, cioè io sto parlando di problemi politici perché in questo momento tutto ruota intorno a quello. Sarebbe molto interessante avere delle banche private o così questo tipo, anche se abbiamo visto in Europa che la banca privata poi non è che ha portato dei grandi risultati, perché alla fine noi, tranne questo singolo problema, che non è un problema sistemico, sarebbe molto più grave se tutte le banche avessero dei problemi. Invece, e si pone l'accento sui derivati e così questo tipo, quando in realtà i derivati erano la foglia di fico per coprire un singolo problema, ma sì. Il sistema banche italiane si è rivelato il più solido d'Europa. Dalle altre parti invece non dimentichiamo che di soldi pubblici per pagare le banche ne sono stati messi cifre iperbolicamente superiori rispetto a quelle in Italia. Quindi, eppure si stava parlando di banche private dove la politica non c'era, quindi non andiamo a cercare problemi, allora, che non ci sono, ma c'è un singolo problema. Io vorrei chiedere a Massimo Giannini, visto che siamo sull'onda, diciamo, politica, in molti sondaggisti, oggi un giornale va a sentire vari sondaggisti a chiedere se questo avrà effetti e che tipo di effetti avrà sul voto. Secondo lei il Partito Democratico rischia di vedere erosi un po' dei consensi per questa vicenda Montepaschi-Siena, Giannini? Può darsi che qualche effetto ci sia, non saprei quantificarlo onestamente. Credo peraltro che, come penso anche l'inchiesta accerterà nelle prossime settimane, ripeto ancora una volta, ferma restando la responsabilità degli amministratori locali di Siena, si capirà con tutta evidenza, come dicevo prima, che quell'istituto era un bancomat del quale si servivano molti. Da questo punto di vista insisto a dire, e anche le parole di Borghi me lo confermano, che l'analisi fatta in modo così unidirezionale usando questa vicenda come una clava da brandire solo nei confronti del Partito Democratico non coglie davvero il problema di fondo che c'è nella dinamica dei rapporti tra finanza e politica, perché come lei diceva giustamente, qui il nodo di fondo da sciogliere riguarda il controllo politico sulle banche, e questo prescinde dal caso Montepaschi, che pure ha delle sue ulteriori specificità, ma il punto critico di questo rapporto è nella disciplina delle fondazioni. Le fondazioni sono in mano agli enti locali, gli enti locali sono sindaci e presidenti di province, espressione ovviamente dei partiti che vincono nelle rispettive zone territoriali e poi hanno dunque diritto di esprimere i manager che controllano e che gestiscono le banche. Che sono quelle, che non pagano l'IMU poi le fondazioni, esatto, è vero? Quali poi, con i loro edifici. Quali poi, esatto, le fondazioni sono principali azionisti. E questo riguarda evidentemente non soltanto il Monte dei Paschi, ma anche le regioni nelle quali comandano, o comunque i comuni e le province nelle quali comandano. No, ma è chiaro che il problema è... Se non si interviene lì, è chiaro che il controllo politico sulle banche continuerà in qualche misura ad esserci. Allora, questo è il nodo vero. No, questo è il nodo, sicuramente. Ad attaccare il Partito Democratico e basta, senza poi tener conto. Beh, è chiaro che in questo momento, essendo la banca identificata così per sommi capi, in maniera anche giornalistica, brutalmente la banca vicina al Partito Democratico, questo avviene. Borghi, però, me lo deve promettere in 10 secondi che devo chiudere. Secondo lei, invece, Monti ha un qualcosa di coinvolgimento in questa vicenda, nel senso, si può dire, se dice sempre l'uomo delle banche? No, allora, in questo caso, come ho detto, stiamo parlando di una cosa specifica dell'area PDE. Tra parentesi, altre fondazioni ci sono, sì, ma non hanno la maggioranza assoluta del controllo, cioè non mi risulta che le fondazioni controllino totalmente l'Unicredit piuttosto che la Banca Intesa. Dall'altra parte invece Monti, diciamo che colpisce l'identità finanziaria della cifra dell'IMU per il pagamento a 20 miliardi quanto a fondi salvastati, sì, che serviranno anche a ripagare le banche spagnole, e 4 miliardi per il Monte Paschi. Va bene, ci fermiamo qui, grazie a tutti. Tra poco Simone Spezia continua anche su questo tema, la politica e le banche, e noi ci troviamo domattina alle 6.30. Alessandro Milan è un ottimo, eccellente rimedio contro lo stress e le gastriti da politica. 24 mattino.